Piazza Alta, un programma di e con Enzo e Marcello. Alla parte tecnica, Simone. Une. È venerdì 29 aprile, un altro mese se ne sta andando, ma è l'inizio della fine. Piazza Alta. L'inizio della fine settimana. Bellissimo. Benvenuto a Enzo. Benvenuto a Marcello e benvenuto a Simone. Simone Oreone. Questa è Piazza Alta, il venerdì. Questo è venerdì. E questa è la prossima canzone. Inizia il più bello del weekend che possa esistere dopo il Big Bang. Boh, non lo so. Va bellissimo. Una musica. Dopo. Buon ascolto dalle F Frequenze. Everybody wants to rule the world. Bellissimo. Questa è Piazza Alta, questa è Radio F, venerdì finalmente ci ritroviamo, anzi ci risentiamo con tutti voi. Sembra ieri, veramente, sembra che eravamo ieri, qui. E invece una, una settimana. Una settimana. Finalmente... Calma, Marci. Io questa stasera, pasticca, quindi... Che programma è questo? È un programma vario, di umana varietà. Innovativo. O di varietà umana. E dove lo possiamo ascoltare, culturale, caro il mio Marci? Lo possiamo ascoltare sulle magiche frequenze di Radio F 89.2, sì, ma anche in streaming su www.radiof.it, oppure scaricando le varie app. E dove basta che voi scegliate Radio F e le trovate. E vi si apre il grande mondo della musica, dello spettacolo e dell'intrattenimento. E non solo, potrete anche interagire con cosa noi. La tengo a fare se abbiamo dei problemi con la cuffia di Marci, ma non solo, ma è più che altro le orecchie di Marci che può essere 392 4900 800, ripeto 392 4900 800, è il numero. Aspetta, fammi finire. Lo so che vuoi dire quello, ma aspetta, è il numero, è il numero per poter con dialogare tramite un SMS o un WhatsApp. Ma tu, Marci, che sei anziano, invece cosa preferisci? 0575648276. Ti ricordi? 6, 4, 8, 2, bravo, 7, c'era uno slogan che lo diceva, un jingle che lo diceva con varie voci. Dai, faccelo tutto. No, non però, però c'era una cosa. Però siamo anche molto social. Oh, molto social, e nelle varie applicazioni che trovate sui vostri smartphone o sui vostri tablet o in ogni dove ci possiamo tenere in contatto. Ad esempio con la pagina Facebook di Radio F, e Radio lì F. Potrete veramente interagire anche lì con noi. Ma in non diretta. Solo stasera, anche nei prossimi giorni, nelle prossime ore, perché pubblicheremo... Abbiamo già pubblicato, tra l'altro, bravo caro il mio Marci, una foto di noi già pronti per iniziare a fare il programma. Le nostre facce dicono tutto sulla nostra situazione psicofisica, anche motoria, se vogliamo. Anche. E a proposito di psicofisica, si vede anche l'ospite in quella foto, ma ne parliamo dopo. Possiamo solo dire che sarà una serata sportiva. E te questa cosa... Già, guarda, finché si parla di cucina mi sento a mio agio, ma stasera non so se avrò cose da dire. È l'inizio di uno spettacolare weekend di Radio F, è l'inizio fine, cioè l'inizio della fine settimana. Dopo Piazza Alta praticamente poche ore di pausa, poi... potete riposare le vostre stanche membra e subito inizia il weekend di Radio F. E allora Simone, facci sentire come inizia questo... E facci sognare, vai. Hai cambiato faccia, sei diverso tutto, maledetto tempo, la mamma è disperata, l'amico se ne frega, e tu vai in giro la sera come un amore impazzito, in cerca della gente come te che si abbraccia senza un motivo e non discute mai di niente, ma che si prende a cuore, si sente e si sente. Dove tutto è sospeso, il bilico tra la vita e la morte. Mi manca già l'odore di questo brivido che mi prende la schiena e lo stomaco e mi trascina stanotte dalla vita alla morte, dalla strada esterna. Ragione, non hai mai ragione, poi fai come ti pare, ma decidono gli altri. La mattina ti petti e vai a fare lo sport, poi ti basta una doccia, devi uscire la sera, cerca della gente come te che si abbraccia senza un motivo e non discute mai di niente, ma che si prende a cuore, si sente e lo sente. Per la rubrica Nuove Proposte, Simone stasera ci ha... ho fatto sentire i The Giornalisti, cioè si chiama il gruppo The Giornalisti, e Tra la strada e le stelle, che è il loro nuovo singolo di un album che presumibilmente uscirà verso il prossimo autunno. Ma non è detto. Ma diciamo che le notizie ci possono portare, ci portano a questo periodo dell'anno. E questo, diciamo, ci fa ben sperare. Ma sì, ma perché è una speranza per tutti. Ma... caro il mio Denzo. Allora, guarda, ti volevo... questa sera, questa è Piazza Alta, questa è Radio F, sapete che Piazza Alta svaria, ne più argomenti spesso più diversi. Spesso e volentieri, infatti, svaria ogni Io direi, penso che l'impostazione giusta dell'argomento di questa sera è, nonostante la stagione avversa di questo periodo, ci dobbiamo preoccupare della prova costume. Esatto. Non è proprio questo, secondo me, l'intento per cui determinate persone fanno cose. Però poi anche il costume stanno bene. E infatti questa sera parliamo di un argomento in cui Marcello è ferratissimo. Marcello eccelle. Ed è lo sport. In ogni sua forma e declinazione. Ma soprattutto stasera abbiamo un caro amico e un grande uomo sportivo. Che sarà qui a parlare con noi. Alessandro Bracciali. Buonasera a tutti. Ciao Alessandro. Ciao. Dopo snoccioleremo anche il suo palmarès, che è di tutto rispetto. Qui abbiamo di fronte a noi un atleta azzurro, voglio dire, ecco, diciamo. Tra l'altro, ecco, ha le cuffie azzurre ed è vestito di un azzurro. Sì, perché gli è rimasto nel cuore. La nazionale di atletica leggera di cui ha fatto parte, ma ci spiegherai con calma le tue esperienze, come si arriva ai tuoi livelli, come hai fatto ad arrivarci, quali sacrifici hai fatto, il bene che fa fare lo sport, cosa che Marcello assolutamente ignora. Questo è il messaggio. Però so che anche te fai qualcosa, Marcello. Certo, io mi cimento sul giro della tavola, da seduto, senza ostacoli, perché se ci sono le sedie già comincia a essere troppo impegnativo. Facciamo solo una domanda, Alessandro, tanto per capire quello che si può fare o non fare. A che età hai iniziato a fare sport? Allora, sport ho iniziato quinta elementare con il calcio, perché è lo sport più immediato da trovare in queste zone. E dopo, visto che non ci cavavo niente, come si dice da queste parti, era uno scarpone, però insomma correvo abbastanza veloce. Ho saputo di una pista qua vicino a Torrita e hai provato? E ho provato, poi prova, alla fine. Ti hanno fatto entrare. A quel punto... No, e tra l'altro, questo ora vorrei fare subito un discorso serio e mi sembra un po' troppo. Se lo vuoi togliere, insomma, facciamolo subito. No, questa è la dimostrazione di quando ci sono delle strutture importanti, in quei casi si può veramente trovare delle persone, che hanno caratteristiche che si addicono a diversi sport. Se tu non avessi avuto questa possibilità, magari avresti continuato a giocare a calcio e la nazionale italiana di atletica leggera avrebbe perso quello che per fortuna non ha perso. Io senti adesso, visto che hai dato qualche input, però mi piacerebbe che proprio Alessandro dicesse quella che è stata un po' la sua carriera, la sua vita sportiva, partendo appunto dall'inizio, per poi avere i primi successi, no? Cioè, diciamo, tu sei entrato in questa, credo che sia un'associazione sportiva di atletica leggera? Sì, vabbè, la prima società era quella di Torrita, che però ha chiuso subito l'anno dopo. Quindi non è che andavi benissimo. Ho passato un paio di società prima di approdare alla Sestese di Firenze, che è una società di Firenze, dove già nel 91 vinsi il mio primo titolo italiano, avevo 15 anni. E quindi iniziamo a segnarci il palmarès di Alessandro, perché è importante. Quindi a 15 anni hai vinto il tuo primo titolo italiano? Giovanile, ovviamente. Sì, avevo 15 anni, specialità? Sui 200 metri. Quindi sei un velocista? Sei un velocista. I velocisti, lo dico tanto Marcello che mi guarda così, i 100 metri piani, ma non piano, i 200 metri, anche i 400 metri. Anche 400, sì. Esatto. Sì, sì, sì. e poi le varie staffette nelle stesse distanze. Sì, esatto, esatto. Questo è. Io andrei subito a programma, si potrebbe anche concludere con sì, perché ho detto soddisfatto senza dire cavolate, quindi sono abbastanza soddisfatto. Ma ecco, perché tutta questa fretta? Nel senso, i velocisti. Prendetela un po' con calma. State sempre in no, facciamo così, prima di parlare ancora appunto di come è andata, a 15 anni eri già campione italiano di categoria, ma ti volevo fare una domanda sugli allenamenti, stasera spazieremo molto con le domande. Io per esempio ho provato umilmente e con scarsi risultati a fare una maratona, ed cioè, ecco perché sono arrivato in fondo, che è già qualcosa. A fare un programma radio, però un allenamento molto, molto differente immagino, no? Perché voi avete tutto da dare in 10 secondi, 20 secondi al massimo, giù di lì. Ecco, come si fa a diventare, ora la dico, esplosivi così tanto? Quali sono le specifiche di un allenamento o di una serie di allenamento, di un programma? Beh, diciamo che velocisti ci si nasce, cioè nel senso alcune caratteristiche del velocista o ce l'hai o non ce l'hai. Mentre per esempio la resistenza per chi fa corse su strada, la maratona, si può costruire meglio. Ovviamente anche lì dipende dove costruisci. Ora, non, cioè, per, no, non, no, no, ma, non per nulla togliere, però no, insomma, no, ma su di me la voglia costruire sempre lì si arrivava, non è che si poteva e quindi già tre condoni, ma non è che siamo sempre, siamo sempre lì. No, e soprattutto la resistenza si può fare anche diciamo in un'età più avanzata. Esatto. Abbiamo degli esempi anche qui a Foiano di persone che insomma si sono cimentate nelle corse di resistenza già diciamo da adulti e che stanno avendo dei buoni risultati, esatto. Come Federica Mencarelli, certo. Tatiana Maccherini, Alessandro Pratesi, sono tutti amici che Caterina stanno... Caterina Corsi, insomma stanno... Sì, Caterina Corsi, sì, vero, tutti ragazzi ottimo. Che stanno facendo bene. Non è detto infatti che una prossima puntata la non sia anche con loro qua in studio, perché sono eccellenze del nostro paese, mentre invece sul tuo tipo di sport... L'esplosività ce la devi avere dentro. Sì, sì, la velocità si tratta di fibre veloci, quindi ognuno di noi ha una certa percentuale, c'è chi ce n'ha un po' di più, c'è chi ce n'ha un po' di meno, chi ce n'ha di più va più forte. Esatto, io mi immagino voi, scusa Marcello, ma se vuoi fare delle domande... Assolutamente, sono abbacinato perché immagino... ho cercato di trovare degli input che mi riguardino, ma ancora non ho trovato nulla. Per esempio, mi immagino, hai detto a 15 anni eri campione italiano, quindi ti allenavi già... seriamente, insomma, nei limiti di quello che deve fare un ragazzino, giusto? Però abbastanza seriamente, immagino. Sì, sì, non era facile allenarsi, cioè nel senso che il campo era a Torrita, io partendo da Foiano dovevo fare l'autostop per andare a Torrita e l'autostop per tornare da Torrita, quindi come dicevi te, gli impianti è difficile trovarli. Di solito sono lontani, quelli che ci sono stanno iniziando a perdere colpi e quindi è un grosso problema, quello sì. Esatto, immagino. E poi immagino anche dei bambini o dei ragazzini comunque si ritrovano a fare gli allenamenti di pallavolo, di calcio, sono 10-15 persone insieme, comunque si divertono. Tu eri da solo, avevi dei compagni, o comunque il tuo allenamento è singolo, voglio dire. Sì, sì, ma non è che mi annoiavo. Cioè, no, cioè... no, non volevo dare un'immagine di Remy che va. No. Innanzitutto eravamo in due a fare l'autostop, io e il Menchetti del Pozzo, e ci si divertiva, perché poi ci si fermava a mangiare un po' di paste, non diciamo dove, perché a parte non c'è più. Non vabbè, c'è... ma diciamo una pasticceria. Una pasticceria. Che era una sosta intermedia. Sì. Del ritorno ovviamente, non prima degli andare anni. Lì belli dietro. No. E quindi no, anzi è stato un bel periodo anche divertente, perché vabbè c'erano qualche ostacolo, qualche avversità, però anzi diciamo fortificava ancora di più il fatto di doverli superare. Beh, poi le volte che non trovavano l'autostop, il passaggio andavano a piedi. No, come si costruisce l'atleta? Lo abbiamo sempre trovato, però il nostro sogno era che si fermasse una bionda. Andiamo con una bella canzone. Questo è un difetto. Se è tempo di partire adesso so che lascerò il meglio e il peggio dietro di me. E anche se ora la mia ombra resta in più, io continuo. dire adesso so che porterò il meglio e il peggio dentro di me. Sono qui, Cosmo, caro il mio Marci che mi guardi attonito, ma anche io non lo sapevo, ma Simone mi dice che questo è il primo singolo di Patrick Cosmo, un Barry Fay, ex tastierista dei Casino Royale, ma sono, e poi ancora il nuovo leader dei Blue Beatles, ma lascia stare, non si preoccupare. Sono affascinato. Questa comunque sono sempre è Piazzalta, perché Piazzalta parla di tante cose, parla e vi... Non e vi sa insegna niente di nulla, di no, nessuno, però parla insegna, un po' di tutto. Sì. E vi insegna tanta buona musica, perché insegnare la buona musica non è facile. È vero, è vero. Ma impararla è ancora infatti più difficile. Per esempio, con noi Simone non ci sta cavando niente, ma questo... Capita, no? È l'eccezione che conferma la regola. Ma siamo in studio con chi, Marci? Con Alessandro Bracciali, che ci parla un po' della sua vita privata, della sua vita privata sportiva e non, e dei suoi sforzi per sempre sport, per la sua attività, esatto. Ma quando c'è il sentimento io quella categoria degli inizi della sua carriera di atleta. Sì, perché avevamo detto appunto con Alessandro che a 15 anni vince il suo primo titolo nei 200 metri piani atletica leggera, quindi su pista ovviamente, perché su ghiaino è più difficile, diciamo che i tempi sono un pochino più alti, e continua a allenarsi e continua a gareggiare. E a un certo punto che succede? Che succede dopo i 15 anni, dopo il primo titolo? Succede che a 18 anni mi vengo chiamato da una società militare, anzi da più di una società militare, e inizio a fare l'atleta di lì ad un anno, diciamo fra virgolette, per professione, anche se in Italia non si può parlare di professione, però insomma ho fatto l'atleta per 15 anni con le Fiamme Oro, che è il gruppo sportivo della polizia. Ecco perché... Un'altra cosa, magari la sappiamo tutti, però vale la pena ricordarla, che realmente gli atleti riescono a gareggiare in Italia o comunque ad avere un supporto economico, sì, anche se vogliamo, soprattutto grazie ai corpi militari in Italia. Sì, sì, quindi esatto. Tu Fiamme Oro, io Fiamme Oro, polizia. La polizia, poi ci sono le Fiamme Gialle, la finanza, carabinieri, e poi ci sono le Fiamme Azzurre, che è la polizia penitenziaria, la forestale e l'esercito. Per dire, no? Per dire. Penso, aver voglia e bisogno di fare atletica. Qualche modo ci sarebbe. No, vabbè, ora alcune, diciamo, c'è stato un ridimensionamento da quando sono entrato io, sia nei numeri che dei corpi che... Rispetto, insomma, agli anni in cui hai sì. Anche perché mi sembra di capire, Alessandro, che se, diciamo, questa sono corpi che in un certo senso incentivano e aiutano anche all'attività atletica, altrimenti sarebbe tutto demandato al singolo o forse alle società sportive. Sì, tutto al privato, però ovviamente qua in Italia c'è un sistema per il quale lo sport, diciamo, al di fuori del calcio, pallavolo e basket poco altro. E poco altro, viene appunto demandato a quello che sono i corpi dello Stato, che sopperiscono alla mancanza del mercato. Diciamo, può piacere o non può piacere, però diciamo, è questa, nuotatori, sciatori, certo, schermitori e tutto il resto hanno una collocazione più difficile, diciamo, un sostegno più... Meno importante. Quindi diciamo che a 18 anni ti chiamano le Fiamme Oro, tra gli altri. Sì, tra gli altri anche le Fiamme Oro. Scegli di entrare con sì, le Fiamme Oro. Sì, scelgo le Fiamme Quindi Oro. Corpo della polizia. E da 19 anni in poi ho gareggiato per loro. E cosa hai ottenuto? Diccelo, facci sognare. Vabbè, sognare. Comunque nel corso della mia carriera ho fatto varie nazionali, prima giovanili e poi assolute, tra cui anche una finale agli europei juniores. Scusate se è poco. No, per esempio nemmeno l'ho visti, cioè nel senso nemmeno come biglietto sono riuscito a partecipare. Io europei non ci sono mai stato. Lui l'ha corsi, figuriamoci. Poi ho avuto la fortuna e il piacere di fare una staffetta con Fabrizio Mori, che insomma è uno che ha vinto un mondiale di atletica. Che staffetta era quella? Era la staffetta della Coppa Europa di Parigi del 1999. Quindi ho 4x200? No, 4x400, perché poi nel frattempo sono passato dai 2 ai 400. È stata quella volta in cui è scomparso il testimone, se non sbaglio. No, è stata una bella esperienza perché ho corso all'Etat de France, dove insomma hanno fatto poi anche mondiali di calcio, esatto, e tutto il resto, sì. Quindi è stata una bella esperienza. Poi ho fatto alcuni record toscani, che sono tuttora attivi, diciamo. Beh, anche se sono abbastanza longevi, però ancora reggono. Speriamo che insomma ci sia qualcuno che me li batta. Perché... Certo, sì, dicono tutti così. Sì, il vero spirito. Sì, sì. Poi mentre si accorge uno che corre bene, gli tira un testimone fra le gambe. Anche Mendea lo diceva. Poi, calma però, eh. C'è tempo. Se lo volete battere, magari trovate, però calma. Carico. E volevo fare un'altra domanda intelligente, ma due nella stessa sera non l'ho mai fatto. Io invece ce l'ho e vorrei fare un passo indietro al discorso degli allenamenti. Non sono stato io, no. Degli allenamenti. Perché io ho avuto il piacere qualche volta di vedere anche proprio non solo le gare che sono diciamo, il momento massimo, ma anche gli allenamenti di atletica di Alessandro. Io ho avuto proprio la percezione, correggimi se sbaglio, che oltre che la preparazione fisica sia fondamentale la preparazione mentale, caratteriale. Ecco, è un'impressione errata quella che ho, perché secondo me, come aveva accennato anche Enzo prima, diciamo non è uno sport di squadra, è vero che non siete soli, diciamo che l'atleta non è solo, però in fisicamente però, e esatto, mentalmente siete voi con voi stessi in sì, un certo senso. Hai detto benissimo, cioè la preparazione non è solamente fisica, anche se è molto dura la preparazione per arrivare a quei secondi che prima diceva lui, è molto, molto più dura, diciamo la gara è una punta dell'iceberg, dietro c'è allenamenti durissimi. E poi non solo dal punto di vista fisico, ma anche mentale, alimentare, diciamo che bisogna essere allenati sotto controllo a 360 gradi, il che non vuol dire che siamo dei monaci tibetani, no, assolutamente no, anzi facciamo una vita molto sociale, ecco, Marcello mica... qualcosa ne sai. Sì. Però, tra l'altro le privazioni dal punto di vista alimentare, ci sono o non ci sono? Queste sono quelle che a me darebbero. Ti preoccupano di più. Ah, per alcuni ci sono, per altri no. Dipende anche quello, sempre dal singolo. Alcuni c'è un mio carissimo amico che mangia anche il tavolo e non prende un grammo, altri invece che purtroppo, pur stando attenti, riescono a stento a rimanere in forma. Sì. Ti voglio fare un domandone, guarda, mi è venuto in mente mentre parlava Marcello, che è mia musa ispiratrice. Fuori da quelle che mi hai scritto? Sì. Volevo chiederti, ma... si parlava di alimentazione. A proposito di questione mentale, di concentrazione, fare una gara, ad esempio, in 200 metri, sei te che sei concentrato, pronto a partire e arrivare. Quando fai una staffetta, appunto, come dicevi, che tra l'altro hai fatto a livelli altissimi, no? Anche con colleghi, insomma, a livello mondiale, che preparazione mentale, ma soprattutto c'è preoccupazione? Cioè, ti senti responsabile degli altri? Se sbagli un passaggio di testimoni, per dire, vai a inficiare una gara che non riguarda solo te. Cioè, avevi delle apprensioni quando facevi la staffetta in questo genere oppure in questo senso? Dipende dal livello della staffetta. Quando ad alti livelli sì, c'hai apprensione di sbagliare qualcosa, perché come si dice da noi la fa grossa. Se sbagli un cambio a una staffetta, che ne so, europea, mondiale o anche olimpica, ma purtroppo io non ci sono mai andato, è un danno grosso, diciamo. Sì, perché non è più un danno solo tuo ma è del collettivo. Esatto. Tra l'altro qui vicino a noi c'è una ragazza che si allenava con me, che lei tuttora corre, che ha fatto anche le staffette alle Olimpiadi, Chiara Bazzoni. Ah sì, certo, che insomma lei ha avuto anche risultati di gran lunga migliori dei miei, che insomma ha fatto staffette molto importanti. Sì. Io direi, Marcello, se sei d'accordo andiamo con un altro brano, anche perché Simone scalpita, giustamente. Sai benissimo che penso dalle tue labbra. Tra l'altro, dalle note musicali che... Questa ti piace per forza. Sentiamola. Con cui Simone ci delizia. Dalla. 1976. Dirty, more deep than alive. I'm waiting for Underground, I'm waiting for the mail. Questo ci ricorda altre cose. 1967. Ma no, era un altro tipo di band. Piazza Alta, Radio FN, 22:37 minuti e il weekend parte solo adesso, ma non finisce. Siete pronti? Più. Stiamo parlando di sport. Marcello non capisce. No, ma mi adeguo. Invece io capisco che abbiamo qui Alessandro Bracciali, che è una, diciamo, ex atleta nazionale italiana, di un personaggio nel mondo dello sport, e che adesso un po' ha rallentato la sua attività, ma sta mettendo a frutto le sue esperienze passate. Bravo! Come sono andati? Ha letto veramente bene. Questa è venuta spontanea. Diciamo, Alessandro, adesso come ti interfacci con lo sport, con l'attività, con il movimento, cioè, dell'atletica? Non hai abbandonato questo mondo? No. Ho smesso di correre perché... Diciamo che... A 25 anni si smette, no? No, vabbè, un pochino più là. Ah, perché hai più di 25 anni? Sì, qualcuno... Benissimo, quindi possiamo testimoniare che lo sport fa bene. E se facciamo una foto io e te si vede anche la differenza tra chi ha fatto sport e no. Ho smesso a 32 anni e ne sono passati già 8 purtroppo, perché gli anni passano. Coraggio. No, nel frattempo, diciamo... Ho sperimentato un po' quello che sono gli ambiti dello sport a 360 gradi, perché alleno dei ragazzi a Montepulciano, dove ho una piccola società che fra un po' si unirà alla società locale, alla polisportiva locale, che è la Poliziana. Ok. E questo è uno scoop, questo no, ancora non questo si sa. Ma poi la Poliziana, Fiamme Oro, non poteva essere. Non poteva essere. È la normale consecuzione, non so che cosa. Vabbè. Ho ideato e gestito alcuni eventi, tra cui il Memorial Coscioni, che è il settimo meeting d'Italia, quindi è la settima gara più importante d'Italia. Beh. E in soli 6 anni ad Orvieto, quest'anno sarà il 26 maggio, e ci sarà tra gli altri anche Giusy Versace, la ragazza quella che corre con le protesi. C'è stato un campione del mondo ed olimpico, quello dei 3000 siepi. Uh-huh. E Ken Boy si chiama, ora mi è venuto in mente anche. In più ho sempre ideato ed curato un evento su strade e piazze italiane che si chiama Velocissimi. Tra l'altro io ho visto quello in piazza a Siena, in Piazza del Campo, se non mi sbaglio, che è stato un evento anche molto seguito, c'era un grandissimo pubblico. E questi sono eventi, per esempio, che servono ad avvicinare comunque anche un po' promozionali al sì, mondo. L'intento è quello, l'intento è quello di portare, visto che negli stadi di atletica non è che ci viene poi tantissima gente, l'intento è quello di portare l'atletica dove già c'è un pubblico. Esatto. E quindi ho portato questa manifestazione in varie piazze e strade italiane, Piazza del Campo a Siena, via Guido Monaco ad Arezzo, siamo stati anche a Milano. Quindi diciamo comunque manifestazioni atte a promuovere lo sport senza scopo di lucro, ma proprio per portare avanti l'atletica nelle piazze. Sì, anche certo. Se voi non andate alla stadio dell'atletica, è l'atletica che viene da voi. Esatto, anche perché ci diceva Alessandro fuori onda che si parla sempre di sport e di atletica, ma quello fatto dentro lo stadio in questo momento è un po' meno seguito rispetto praticato a praticato quello su strada, anche perché necessita di strutture un po' più adeguate. Certo, sì, l'atletica su pista è un po' in calo, non fortissimo calo, però è in calo rispetto agli anni 80 e 90. Perché? Perché prima c'erano c'erano delle strutture che in questo momento stanno non sono rimpiazzate. Stanno mostrando un po' l'età. Esatto, un po' come me, insomma. E quindi io, ecco, magari ti potrei proporre di raggiungere queste manifestazioni con un paio di telecronisti radiofonici, qualcosa di leggero, magari unisci l'utile al dilettevole. E quindi ecco, sì, è più facile, fra virgolette, andare a correre su strada, anche se non è facile perché è molto, molto faticoso, però la corsa su strada, la corsa podistica in questi ultimi anni ha fatto segnare un vero e proprio boom con iniziative sia promozionali, infatti c'è anche ci sono delle persone che si ritrovano nei centri di città per andare a correre in quella città e fanno anche per i turisti, fanno vedere quella città correndo. Quindi ci sono degli eventi legati anche al non solo all'aspetto agonistico, ma anche a quello culturale e promozionale che coinvolgono appunto il podismo, mentre sulla pista servono le strutture e ne servirebbe anche una a Foiano, però vabbè. Ci auguriamo. Noi dai nostri microfoni lanciamo un messaggio, lanciamo un appello. Speranza, guarda, un messaggio di speranza. C'è tanto da fare. Facciamo tutto anche fatto d'altra parte. non ci sarebbe più niente da fare. Ci annoieremmo. E senti, invece ti volevo tornare un po' più sullo specifico, perché giustamente abbiamo parlato di Alessandro, che era anche qui per questo, per parlare della sua storia, che non finisce qui, tra l'altro dopo ci torniamo sopra, ma anche proprio per conoscere un po' meglio l'atletica leggera. Noi siamo abituati a vederla in televisione, comodamente seduti. Parlavamo fuori onda, avevo fatto una domanda ad Alessandro chiedendogli quante fossero le discipline dell'atletica leggera. Sono veramente tantissime, ha detto bisognerebbe mettersi qui a contarle, ma volevo sapere, mentre voi fate dei meeting, dei raduni, eccetera, o mentre facevi all'epoca, ormai tanti anni fa, ti sei mai cimentato in altre cose, anche solo per sfizio? Lanciare un giavellotto? Sì, quando siamo giovani soprattutto si fa più cose, perché non è bene provare un po' di tutto. Quando abbiamo 12, 13, 14, 15 anni, uno tenta di provare più specialità, anche per non specializzare troppo precocemente il ragazzo. e quindi ho fatto sì, ho fatto lancio del peso, ho fatto getto del peso perché qualcuno mi correggerebbe se fosse qui, lancio del disco, salto in lungo, ho fatto varie specialità, poi ovviamente crescendo si trova la propria specialità Ad esempio ci sono stati dei veri e propri fuori classe. Io infatti le specialità prendo sempre quelle della casa. Quelle della casa. Quelle consigliate dalla alla carta. Volevo dire un'altra cosa. Ci sono stati dei fuori classe che hanno primeggiato, per esempio, in più specialità, che molto simili probabilmente, questo non direi te, tipo 100, 200, salto in lungo, che è vero che ha una corsa, però prevede anche, ad esempio, un salto proprio. Certo. Però mi viene in mente Carl Lewis, perché io arrivo lì, insomma, non è che so andare più nello specifico, lui dominava un po' tutte queste discipline. Sì, sì, ovviamente la base è la velocità per gran parte delle discipline che si fanno in pista. Poi c'è chi ha appunto anche delle propensioni per più specialità. Al momento anch'io Carl Lewis per me è stato l'idolo assoluto, ho iniziato a fare atletica con la sua immagine, diciamo. Però per esempio adesso c'è Ashton Eaton, che è un decatleta statunitense che è veramente un fenomeno su tutto quello che fa. Nell'anno che l'anno scorso, che non era l'anno olimpico, senza mondiali, ha fatto i 400 ostacoli, che non sono nel decathlon. Sarà annoiato, ne faceva solo 10, ha detto io devo trovare almeno 11. E ha fatto 48,60, che è un tempo con cui entri in finale alle Olimpiadi o Mondiali. Quindi un fenomeno di questo tipo si costruisce, si ha la fortuna di scoprirlo e di indirizzarlo verso certi tipi di sport. Come viene fuori? Allora, innanzitutto è un talento, poi la cosa più importante, come si direbbe a Foiano, è non fare danno, cioè nel senso... Lasciamolo stare! Sì, più delle volte la cosa più importante è non fare danno, poi ovviamente va allenato nella giusta maniera, quello sì, però ci sono questi talenti che come un Mozart nella musica, certo, che a 5 anni già scriveva sinfonie, ci sono anche nello sport persone che naturalmente riescono a fare cose che gli altri non fanno. Ma per esempio un pentatleta, non perché non no, c'è è un decatleta. No. Il sì. Pentathlon, ma è un altro sport, non è atletica. Hai ragione, scusa, perché c'è equitazione. Sì. Ho detto, ma d'altro no, allora, vabbè. Avevo detto quasi tutto giusto. Una, due, fatemela dire. Qui un po' per questo. Un decatleta può partecipare, ad esempio, alle Olimpiadi sia nella gara del decathlon, e poi magari fa anche una gara specifica, tipo appunto come dicevi te, 400 metri ostacoli. È una domanda che mi cogli un attimino impreparato, però penso di sì, perché mi ricordo di una eptatleta, perché le donne fanno l'eptathlon e non il decathlon. Sono più eclettiche. Sì, che oltre all'eptathlon faceva anche il salto in lungo ed era molto forte. Io ammiro tutti voi, tutti, anche Marcello. Ed era anche molto bella, tra l'altro. E questo aspettavo dal nostro ospite. Abbiamo fatto un altro intervento di soli 9 minuti, mentre mediamente dovrebbero essere di 4. Vuol dire che l'argomento... In questo caso non siamo velocissimi. Però siamo sulla durata, noi. Simone, facci sentire un'altra cosa, se hai il coraggio. Dai. 1976. My baby every day. Lots of girls live right near to my house. Pretty girls, they keep passing by all day. Lots of girls, but I don't even see them, 'cause the girl I love is 20 miles away. Every day. my baby every day. Uno dei padri storici del twist, questo era il 1963, lui era Chubby Checkers. Guarda, stavo dicendo tutto bene, ho sbagliato uguale. Se ti guardavi me, il padre fondatore, uno dei padri fondatori. Sempre Piazza Alta, vogliamo ricordare che il weekend è vero che inizia per Radio F, perché domani ci saranno dei programmi spettacolari. Domenica, ancora una domenica sportiva per quanto riguarda Radio F, con gli spareggi nelle varie serie. Concedeteci di dire minori, ma in realtà non lo sono, sono dilettantistiche. A proposito, con il nostro ospite qui in studio con noi, Alessandro Bracciali, ci ha raccontato un po' tutta la sua carriera nell'atletica, ma poi hai avuto anche delle deviazioni verso... Le contaminazioni. Bravo, bravissimo! Delle liaison dangereuse. Allora, guarda... Il tecnico ha preso le parti specializzati. Hai collaborato anche per la preparazione atletica in altri sport, ad esempio. Sì, perché diciamo l'atletica è un po' la base di tanti sport. Certo. E quindi, essendo diventato allenatore nel corso degli anni, ho avuto modo di collaborare con il calcio, con il tennis, con la pallavolo, con il rugby ultimamente. E sono state delle belle esperienze, perché provi l'esperienza di stare in uno spogliatoio, che è da fare, ve lo garantisco, perché le risate che si fanno negli spogliatoi sono veramente, le cene anche, soprattutto. Si è svegliato sulla scena, sulla scena. Volevo dire, era una battuta, no, ormai leggo tra le tue credenziali anche massaggiatore, che magari... può essere anche un titolo in più onorifico. Sì, sono anche, appunto, dicevo che ho cercato di apprendere un po' lo sport a 360 gradi e sono diventato anche massaggiatore, ho preso il diploma qualche anno fa. E sì, sono massaggiatore. Beh. Poi non è che esercito, perché massaggio i miei atleti. E quindi li segui, diciamo, sì, li seguo... un percorso formativo e preparatorio. Sì. E inoltre sei anche tecnico federale della velocità per il comitato regionale Umbro. Sì, siamo vicini all'Umbria, certo. Quindi poi organizzando il meeting ad Orvieto avevi più contatti con... Sì, ero entrato in contatto con la federazione Umbra e da lì... È un tecnico federale della velocità? Che fa? Allora, fa a livello regionale le convocazioni per le rappresentative. Quindi sei un commissario tecnico. Un commissario tecnico, sì, okay. della velocità. Quindi faccio i raduni, convoco i ragazzi ai raduni o alle gare, queste cose qua. Quindi essenzialmente dai anche un giudizio, cioè scegli, sei nella condizione di poter scegliere. Sono nella condizione di poter scegliere o lasciare a casa alcune persone. Non è sempre facile, c'è sempre alcune volte da discutere, però insomma... Penso che i posti siano come sempre limitati e quindi alle volte capita che qualcuno debba essere d'altronde preferito. È anche uno stimolo per fare sempre meglio, no? Per sapendo che non hai il posto assicurato e cerchi di fare meglio per arrivare dove devi arrivare. E lì trovi i tuoi limiti fisici. Ora entriamo in filosofia, stiamo entrando in filosofia assolutamente. Che ore sono? Se siamo in fascia protetta, mia zia. No, sono le 22:54. Noi praticamente con Alessandro abbiamo un po' sviscerato sommariamente, ovviamente, una pratica atletica sportiva che è appunto l'atletica leggera. Ce ne sarebbe da dire altre mille. Vuoi dare dei consigli a chi magari potrebbe, magari già lo fa o potrebbe, oppure avrebbe voglia di fare un po' di atletica oggi come oggi, che cosa può fare? Allora, in zona può venire da me a Montepulciano se qualche ragazzo ha voglia di provare a correre. Io consiglio di fare sport, di provare a fare sport il più possibile, perché comunque sia ti insegna a vivere. ti insegna ad affrontare meglio le situazioni. Per esempio io, avendo affrontato lo stress delle gare quando andavo a fare gli esami all'università o alle scuole superiori, ero molto, molto più tranquillo rispetto alla media dei miei coetanei. Ecco perché io ho la quinta elementare. Ora ho capito. E poi hai il privilegio, diciamo, se di conoscere persone anche particolari. Ho avuto il privilegio di conoscere l'allenatore di Mennea, il compianto Carlo Vittori, famoso Carlo Vittori. Ho avuto il privilegio di conoscere persone che altrimenti non avrei conosciuto. Insomma, ecco. Bellissimo, io direi. Noi abbiamo avuto il privilegio di conoscere Alessandro Bracciali, ma che saluteremo tra poco, perché ora facciamo. Sì. Guarda, questa cosa mi preme perché. Volevo dare anche degli appuntamenti, oltre che riascoltare in podcast la puntata, il lavoro settimanale, infrasettimanale di Simone. Certo, ma lo facciamo dopo la musica. Quale è proprio David? Benissimo, allora dopo ascoltiamo un brano e poi andiamo con i saluti. era il 1963 quando Tito Puente ha scritto questa canzone, te non lo sapevi, ma solo nel 70 ha assurto la gloria che ha tuttora grazie a Santana, e la canzone è Oyo. Come va? Tutto bene. Ale, Piazza Alta, Radio F finisce ancora una volta troppo presto la trasmissione. Veramente. Un grande saluto ad Alessandro Bracciali che ci ha raccontato un po' di sé, ci ha raccontato un po' del movimento che, dell'atletica leggera in questo momento, e che, non lo so, se vuoi fare un invito a chi ci ascolta a praticare sport, non lo so. Finiamo con un messaggio positivo. Fate sport. Sì, no, no, lo scrivono anche sulle ricette mediche ora, quindi di fare atletica. E beh, c'era un articolo tempo fa, nemmeno tanto tempo fa, sul giornale, che c'è il pediatra che... scrive sulle ricette ai bambini di fare atletica. Beh, quindi... mi sembra anche una cosa giusta. Assolutamente. Sì, sì, sì. Dottori sempre più intelligenti. E allora, grazie ancora ad Alessandro Bracciali, con cui appunto abbiamo parlato di atletica leggera e non solo. L'appuntamento è per venerdì prossimo che è maggio, Piazza Alta, cioè su Radio F. Non dimenticate di ascoltarci, anzi, non perdete di ascoltarci anche domani, ma l'altro, e nei giorni a venire. Bene. Marcello, vuoi dire una frase finale intelligente? No, a questo punto direi che hai detto un po' tutto. Ringraziamo anche Simone, e credo che parta la sigla. Sì, la viva Radio F, viva Piazza Alta. Avete ascoltato Piazza Alta, un programma di e con Enzo e Marcello. Alla parte tecnica e alle riprese video Simone. Une. In studio con noi Alessandro Bracciali. Ali.